sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi raccontò che da più di 2 anni faceva stabilmente parte della banda Vallanzasca, che era stato utilizzato già per diversi colpi alle banche, conclusisi positivamente, con bottini di diversi milioni di lire. Sono Gianni, vivo a Usmate, un paesino della Brianza. Ho insegnato una vita e ho cominciato a scrivere da quando sono andato in pensione. Buongiorno Matteo, che le scrive è un ascoltatore delle sue trasmissioni. Il motivo per cui mi rivolgo a lei non riguarda storie scritte da me, bensì da un caro amico. Si chiama Gianni. Purtroppo è stato colpito da una grave malattia e ha trovato il modo di dare un senso alle sue giornate scrivendo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sempre Matteo Caccia, sempre voi siete qui anche in questo venerdì 19 di dicembre, a pochi giorni dal Natale, anche se sappiate noi saremo in onda sempre, a noi proprio non ci ferma nessuno, compresa vigilia, giorno di Natale. Miriam distoglie lo sguardo perché lei sa che dovrà essere qui, al volo, mangerà il giorno di Natale e poi correrà qui per schiacciare play su quel, perché noi ovviamente non ci saremo, insomma, possiamo dirlo che siamo registrati il giorno di Natale, non facciamo finta che. Oggi invece siamo in diretta, ovviamente, e vi ho letto queste parole iniziali perché devo dire che è successo qualche volta, non di frequente, però è successo che qualche volta che qualcuno ci dicesse: un mio amico è bravissimo a scrivere, vi mandiamo un suo racconto. E noi diciamo sempre: facci scrivere dal tuo amico, facci parlare con lui, perché questo è il modo in cui funziona questo programma, delle storie che delle persone hanno voglia di condividere loro, non da parte di qualcun altro. In questo caso però abbiamo fatto un'eccezione per Gianni, che è l'autore della storia, e per Luigi, che è la persona che in realtà oggi noi sentiremo, perché Gianni ha avuto un problema di salute, lui è afflitto in realtà da una malattia e proprio oggi è al pronto soccorso e quindi non può essere al telefono con noi, ma ci sarà Luigi che ci racconterà chi è Gianni e qualcosa di più di lui e di questa storia. Ecco, questa storia parla di un avvenimento che è di un personaggio più che di un avvenimento, che devo dire è molto lombardo, molto milanese e soprattutto appartiene molto ad un'epoca che quelli della mia generazione hanno sfiorato da ragazzini, che era l'epoca delle bande milanesi, dei criminali milanesi, primo fra tutti quella di Vallanzasca. Ogni tanto succede che la vita sia un po' strana e ti faccia incontrare delle persone per caso, persone che altrimenti non incontreresti nella tua vita, e ti basta semplicemente essere nella piazzetta del paese, a pochi metri da casa tua, essere lì in una sera d'estate e vedersi arrivare due tizi che non hai mai visto prima. Ripeto, questa storia ce l'ha mandata Luigi, ma l'ha scritta e l'ha vissuta Gianni. Verso la metà degli anni 70, nel nostro paesino della Brianza, le lunghe e calde notti estive venivano trascorse nei modi più svariati. Ma sempre uguale era la maniera di ritardare il rientro a casa. Da qualunque luogo si provenisse, il ritrovo era sotto l'immenso cedro del Libano, che come un'enorme capanna dava l'inconscia sensazione di una casa accogliente sempre aperta a tutti. Quella notte di inizio luglio, erano circa le 2, un gruppo di 6-7 persone era impegnato a tirar tardi quando, dall'estremità opposta della piazza, si avvicinarono 2 persone. Il passo molto veloce, lo sguardo a scrutare le spalle con rapide e furtive occhiate. Entrambi molto alti, uno longilineo, seppi poi essere il francese. Ecco, lui restava indietro, pur camminando con passo svelto, ma con una leggera irregolarità. L'altro era di corporatura molto robusta. Si avvicinarono e ancor prima di raggiungerci ci sentimmo minacciati da un «Ma che cazzo ci fate qui a quest'ora? Starete mica pensando a una rapina?» I 2 proseguirono con tono canzonatorio, mantenendosi a 3-4 metri di distanza. Poi all'improvviso quello robusto chiese, cambiando registro: «Qualcuno di voi mi potrebbe medicare?» Era una notte calda di luglio degli anni 70, primi anni 70. Noi eravamo in piazza, nella piazzetta del paese, e a un certo punto sono comparse queste 2 persone. Inizialmente avevano un atteggiamento un po' provocatorio. Poi uno dei 2 ha chiesto aiuto perché erano feriti. Io ero quello che abitava più vicino, l'ho accompagnato a casa. Uno era molto atletico, l'altro magrolino. Mi offrì di accompagnarlo a casa mia, che era la più vicina. Distava solo 100 metri dal luogo del ritrovo. Mi avviai con al fianco la persona più robusta, mentre l'altro seguiva, ora zoppicando più vistosamente. Era a qualche metro di distanza da noi. Ad un tratto, quello al mio fianco, girandosi bruscamente verso il compagno, gli gridò: «E tu impara a guidare e a tenere in strada le macchine!» L'altro, in tono stizzito, gli replicò che non si poteva rubare una 500 e pretendere di seminare la polizia che inseguiva con un Alfa Romeo. Aveva la R arrotata alla francese e parlava un buon italiano, ma non di madrelingua. «Vedi quello?» mi diceva ancora la persona al mio fianco, indicando con un cenno quello dietro che ci seguiva. «È un bravo ragazzo, ma non sa guidare. Ha cappottato, ha distrutto la macchina. Ci siamo fatti male e per di più siamo dovuti scappare per i campi di notte, altrimenti ci avrebbero presi subito.» Dio mio, pensai, che mi sto portando a casa. Entrammo tutti e tre cercando di non fare rumore, mentre il francese mostrava un'incontrollabile insofferenza. Aveva sete e chiese subito di bere. Si versava bicchieri colmi d'acqua che trangugiava a raffica, quasi temesse di doverle condividere con qualcuno. Poi, terminata la bottiglia, disse che aveva fretta. Mi salutò, scambiò due rapide frasi col suo amico e ripiombò nella notte. Chiesi se l'amico che l'aveva appena lasciato doveva essere medicato, ma mi rispose che si sarebbe arrangiato. Accompagnai in bagno G, così disse di chiamarsi, che mentre si toglieva a fatica la camicia raccontò di aver avuto un brutto cappottamento. I vetri dell'auto si erano rotti, trasformandosi in un numero impressionante di schegge impazzite che gli si erano conficcate sotto pelle, in gran parte nella schiena. Non riuscii ad estrarre un solo vetro e mi limitai a medicare con la schiena martoriata, invitandolo a recarsi a un pronto soccorso. Ovviamente si rifiutò e in compenso mi chiede se si poteva trattenere un po' a casa mia. Era già molto tardi, ma la richiesta in un certo senso mi lusingò. Ci sedemmo in soggiorno e dopo soli pochi minuti G si aprì ad una confessione che mi lasciò senza parole. Per più di 3 ore ascoltai in silenzio, rapito dall'enormità delle sue esperienze, dall'urgente bisogno di non lasciarmi sopraffare da tanto dolore e dall'incapacità di proferire una parola di vera pietà. Mi raccontò che da più di 2 anni faceva stabilmente parte della banda Vallanzasca, che era stato utilizzato già per diversi colpi alle banche, conclusisi positivamente con bottini di diversi milioni di lire. Che era stato apprezzato dal capo perché in un colpo che si era messo storto, il suo suggerimento di usare una ruspa per sfondare la vetrina della banca aveva sciolto tutti i nodi. Che lui, un ragazzo di 23 anni, aveva sempre molti soldi in tasca e si poteva permettere macchine sportive che le donne apprezzavano, che era un duro, e loro ci andavano facilmente, e lo cercavano proprio per questo. Che lui non aveva paura delle sparatorie, tantomeno della morte, che era sfuggito a molti inseguimenti, ma una sola volta era stato costretto ad arrendersi. E quando era sceso dalla macchina, con le mani alzate, quelli, i carabinieri, gli avevano sparato una raffica di mitraglietta alle caviglie, e poi, quando era a terra, gli avevano camminato sopra. E mentre parlava si alzava i jeans per mostrare 2 caviglie informi, crivellate di colpi, che per questa ragione aveva cominciato ad odiare quelli, li chiamava, di un odio furioso, e che quando si era presentata l'occasione di farne fuori uno, non se l'era fatta scappare. Durante la fuga a piedi, dopo un colpo alla banca, svoltato l'angolo di una via, si trovò di fronte un giovane, di quelli lì, sempre quelli, li chiamava. E prima che si rendesse conto, aveva una pallottola in fronte e i suoi occhi allucinati gli venivano in mente ogni volta che sentiva la parola impronunciabile dell'arma. Che non si pentiva di niente, anche se la sua vita era stata solo furti e donne, ma che guardando i libri e i dischi di casa mia, gli sarebbe piaciuta, in fondo, una vita tranquilla. Così, con tutte queste cose e gli amici con cui chiacchierare in piazza, ma che a lui gli era girata subito storta perché a 12 anni suo fratello lo mandava a riscuotere i soldi dello spaccio con la pistola in tasca e lui non aveva mai avuto paura di nessuno. È stata una confessione fiume, è durata quasi una notte perché è iniziata verso le 11 e lui è andato via di casa verso le 3, le 4, adesso non ricordo esattamente, comunque molto durata. Un fiume in piena, E chissà cos'altro avrebbe potuto raccontare se alle prime luci dell'alba non l'avessi interrotto per chiedergli se non si sentisse stanco e desiderasse un caffè. Questo bastò a rompere il flusso e riportarci alla realtà. La realtà della fuga per lui e del lavoro per me. Ci salutammo come due amici che avevano appena celebrato un patto di sangue. Lo accompagnai alla porta, avevo le vertigini, e lo osservai scendere la scala lunga. Non lo rividi per molto tempo, ma ripensai infinite volte a quella notte e alla strana coincidenza con il materiale che stavo trattando per la tesi. Da mesi, infatti, lavoravo sulla questione morale nell'opera di Dostoevsky e avevo già incontrato l'espressione che poi mi divenne familiare, che dice: tra il santo e il criminale c'è un solo gradino. Confesso che mi spaventava seguire le evoluzioni della banda Vallanzasca sui giornali a quell'epoca. Temevo di trovare una brutta notizia e non ho mai letto nulla a proposito. Un giorno però, forse un anno dopo il nostro incontro, ci ritrovammo casualmente per strada. Lui mi vide per primo e si sbracciò per farsi notare. Poi, appena il traffico lo permise, attraversò di corsa e mi salutò con calorose pacche sulla schiena. Aveva fretta, ma si trattenne alcuni minuti. Quando si congedò mi disse: «Tutto bene? Guarda Gianni, che se qualcuno ti rompe i coglioni me lo devi dire, che te lo sistemo subito». Mi limitai a sorridergli dicendo che tutto andava bene e di non preoccuparsi per me. Lui riattraversò la strada e si girò un'ultima volta per salutare. Il sorriso che mi indirizzò fu l'ultima sua immagine che conservo. L'anno dopo morì in una sparatoria coi carabinieri. Appena giunta la mezzanotte e una pattuglia di polizia ha circondato quell'osteria e al numero de lor mi han portato e a tradirmi fu un amico caro ma che di nome si chiamava Nero. Io lo credevo un amico sincero ma invece lui così mi ha tradito. Intanto ringrazio Tiziano Bonini per aver messo Nanni Svampa, credo per la prima e unica volta, e a Voi Siete Qui. Ma Gianni, la foto di Gianni che trovate sul nostro sito Voi Siete Qui Radio 24, sta parlando a qualcuno, a una platea, perché ha addosso una polo, ha su degli occhiali, guarda dritto davanti a sé e tiene in mano un microfono ed evidentemente sta raccontando qualcosa. Non abbiamo il telefono Gianni, che purtroppo non sta molto bene ed è in ospedale in questo momento. Abbiamo al telefono Luigi, che in realtà è la persona che ci ha mandato la storia che ha scritto ovviamente Gianni. Pronto Luigi, buongiorno. Sì, ciao Matteo, buongiorno a tutti. Grazie a voi di questa grossissima opportunità per Gianni. Figurati, grazie a te per averci messo di fatto in contatto con lui. Allora, innanzitutto due notizie. Oggi, 19 dicembre, è il compleanno di Gianni, quindi gli facciamo gli auguri primo, giusto? Esattamente, infatti l'augurio vostro e anche di tutti i suoi amici in questo momento particolare per lui, un grossissimo augurio di compleanno e per tutto quanto. Perché lo diciamo in breve, senza commiserazione, Gianni sta vivendo una malattia che... Sì, una malattia invalidante, progressiva e anche aggressiva. Che ha purtroppo un decorso anche piuttosto veloce, mi scrivevi. Ha deciso lui di mettersi a scrivere degli episodi della sua vita o l'avete convinto voi amici? Ma è stata un'avventura, è cominciato un amico dicendo: ma perché non facciamo dei racconti stile Wuming dove qualcuno scrive qualcosa? In realtà l'idea era ottima, però a incominciare è stato Gianni ed è stato l'unico che poi è andato avanti producendo una serie di racconti. Ed è così che abbiamo scoperto la bravura di Gianni nello scrivere e nello stesso tempo a rivelarci molto del suo carattere, della sua vita interiore. Ma, ad esempio, scusami Luigi, voi questa storia la conoscevate, questa che abbiamo appena raccontato, quella del bandito? Nel senso che quanto vi conoscete con Gianni? Siete amici da ragazzi oppure... Sì, okay. La maggior parte... Le avete vissute insieme, gran parte delle storie... Dall'infanzia. Io però questo racconto non lo conoscevo, altri sì, per me stato però una sorpresa. Senti, a questo punto noi abbiamo appunto letto una di queste storie, che è la storia di questo bandito che devo dire ha un suo fascino, o meglio, per quanto possa essere affascinante le storie di banditi che comunque rimangono dei criminali. Tu l'avevi vissuta insieme a lui? C'eri? Ti ricordi di questo individuo? Oppure questa no, invece... No, io non c'ero. Non c'eri, non l'ho okay. vissuta con lui, però che mi ha colpito è lo sguardo che lui riserva a tutte le persone che descrive nei suoi racconti, anche per i banditi ha questo sguardo di pietà, insomma, di amicizia in fin dei conti. Che cosa ha fatto nella vita Gianni? Gianni nella vita inizialmente ha fatto diversi lavori, poi si è laureato più avanti con l'età e la maggior parte del suo tempo di lavoro l'ha passato insegnando religione in una scuola d'arte di Monza. E che tipo è Gianni? Raccontaci qualcosa di lui, visto che non ce l'abbiamo al telefono siamo curiosi. È un tipo splendido, nel senso che è circondato da moltissimi amici. Questo la dice lunga sul fatto che è in grado di donare a tutti qualcosa. E effettivamente è difficile staccarsi da lui e dimenticarlo. È per questo che gli siamo vicini e lui ha anche una grandissima memoria che lo porta a descrivere con assoluta precisione i racconti. Invece Luigi, scusami, i racconti sono ambientati in un paese che è il tuo anche, immagino. Sì, che sì, paese sì, è? Un paese qui della Brianza, Usmate. Usmate, ok. Esatto. Che si fa sempre copia con Usmate Velate. Esatto, perché è un paese composto da due centri sostanzialmente con un unico comune. Qui, però, scusami, esiste un unico municipio, Usmate Velate, sì. O esiste quello di Usmate Velate? No, un unico municipio. Perfetto, sono riuscito a ripetere Usmate Velate perché mi piace tantissimo come suona, Usmate Velate, Usmate Velate, sembra quasi un mantra. Luigi, a questo punto io non posso davvero che ringraziarti per averci messo in contatto con Luigi, fagli chiaramente i nostri migliori in bocca al lupo, scusami a Gianni, perdonami, i nostri migliori in bocca al lupo e gli auguri per il compleanno e ovviamente per le feste che arrivano. Grazie ancora Luigi. Grazie anche a voi per questa grossissima opportunità. Ciao. Un abbraccio. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E alla fine, dalla storia di Gianni, ho capito che, primo, non esistono banditi buoni o cattivi, ma solo banditi. Secondo, non esistono persone buone o cattive, solo persone. Terzo, incontrare qualcuno come G, il bandito, in una notte, da ragazzo, in parte può essere molto pericoloso. Quarto, incontrare qualcuno come G, il bandito, in una notte, da ragazzo, in parte può essere una fortuna. E soprattutto, quinto, essere un bandito non è una cosa romantica. È solo una stupidaggine. E chiudiamo così anche questa settimana di Voi Siete Qui, ricordandovi che noi siamo in onda anche domani. Ragazzi, siamo in onda sempre. Anche domani, anche sabato alle 14.30 con I Diari di Voi Siete Qui, che è quello che un tecnico definirebbe uno spin-off, cioè un piccolo pezzo del programma che viene preso e ampliato, non è proprio il rumore dell'ampliamento questo, chiedo scusa, allargato per diventare un'altra cosa. Io vi ricordo anche che lunedì sera ci sarà la cena di Natale della redazione di Voi Siete Qui, al quale non siete invitati, mi spiace, non siamo come Radio DJ che fa la cena della radio e poi la racconta tutto il giorno e ti ammazzano sta pippa della cena di... Noi ci facciamo una roba tra di noi, la dico e basta. Ci saranno giusto noi tre, Bonini, che non c'è mai, ma ovviamente la cena ci sarà, e Margherita Hina, che non c'è più, ma viene apposta a Milano. Lo dico solo perché non c'è Bonini, altrimenti come cosa dici? Come ci sono sempre puntuale. Benissimo, dopo un po' di fatti nostri, grazie a Miriam, grazie a Paolino Corleoni, grazie ovviamente a Tiziano Bonini. Voi continuate a mandare le storie. Comunque, voi siete qui, @radio24.it. Grazie soprattutto alle due persone che hanno fatto sì che questa puntata avvenisse. Grazie a Luigi che ci ha mandato la storia e soprattutto a Gianni che l'ha vissuta e l'ha scritta. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Agostina, vivo a Genova. La storia di lunedì è la mia e parla dell'amicizia con una coetanea quando avevamo 16 anni. Questa è la mia storia ed io sono qui. Voi siete qui.